Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ci siamo, è arrivato, è venerdì 17 di un anno bisestile. Insomma, questo 2012 non ci fa mancare nulla, ma sono già le 11:10 e tutto fila liscio, almeno come in un giorno qualsiasi. Oppure no? Se il 17 si è già accanito su di voi, chiamateci subito 800 24 00 24 e chiamateci anche per raccontarci se avete amuleti, riti scaramantici, gesti propiziatori, se siete più impegnati ad allontanare la sfortuna o a procurarvi buona sorte. Molti di voi diranno: beh, no, non sono superstizioso, è un giorno qualunque, insomma non ci credo, ma io non sono superstizioso, ma leggo sempre l'oroscopo sul giornale, appendo un portafortuna o un cornetto alle chiavi, vado in crisi se rompo uno specchio o verso il sale di venerdì. Mi blocco se, mentre sto per dare una stretta di mano, inavvertitamente la incrocio con quella di un'altra persona. Rifiuto la stanza numero 13 o 17 negli alberghi. Credo che il venerdì 17 porti sfortuna. A casa appendo il ferro di cavallo e le zampe di coniglio perché portano bene. Se incontro un gatto nero per la strada, cambio marciapiede. Mi preoccupo se ho appoggiato il cappello sul letto perché porta male. Da Non è vero ma ci credo di Gilles-Jean Genin, San Paolo Edizioni. Se però voi non fate niente di tutto questo e quindi non siete superstiziosi, c'è un appuntamento, un invito per voi. In linea con noi abbiamo il dottor Massimo Polidori, che è direttore del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Buongiorno dottor Polidoro, benvenuto. Buongiorno a voi. Lei ci sguazza in questo venerdì 17. Diciamo che ci divertiamo un po' ogni anno quando c'è un bel venerdì 17 come questo. Organizziamo una giornata antisuperstizione. E che cosa fate di bello? Tra l'altro è la quarta, vero? Esatto, è la quarta. Quindi in varie città d'Italia si organizzano, a parte incontri, manifestazioni, eccetera, si organizzano anche dei flash mob, che sono delle manifestazioni improvvise a Milano, a Bari, a Vasto, a Novi Ligure. E ovviamente chiunque può partecipare, basta che vada sul sito del CICAP e trova tutte le informazioni. E cosa farete? E allora, quello che si farà ovviamente è una sorpresa nel flash mob, però alcune delle iniziative che si fanno di solito, che facciamo in queste giornate antisuperstizione, per drammatizzare, per far capire come certi comportamenti siano privi di qualunque fondamento e tutto sommato anche un po' ridicoli, prendiamo degli specchi, li rompiamo, versiamo del sale, passiamo sotto le scale, e ovviamente facciamo tutte quelle cose che un superstizioso si guarda bene dal fare, proprio per far vedere che non succede niente. Senta, dottor Polidoro, secondo gli ultimi rilevamenti di Eurobarometro, leggevo sul vostro sito, 58 persone su 100 italiane ammettono di essere attratte da idee razionali e superstizioni. Di solito nei vostri incontri sono sempre le persone non superstiziose che arrivano, c'è qualche coraggioso superstizioso che sfida la sorte? Ma insomma, noi cerchiamo di parlare un po' a tutti quanti proprio per far capire quanto sia semplice superare le superstizioni, e chiaramente magari arriva anche qualcuno che è superstizioso e poi si lascia un po' trasportare, scoprendo così che non succede proprio niente, a sfidare la superstizione. Allora, buon venerdì 17, meno male che è arrivato. Sì, direi proprio di sì, perché è un augurio che noi ci facciamo, cerchiamo proprio di conservare anche qualcosa di bello da fare il venerdì 17, a differenza di chi si chiude in casa e non vede l'ora che passi questa giornata. Grazie al dottor Polidoro, buon venerdì. Grazie anche a voi. Volevo un gatto nero. Gatto nero, povero micio, il colore lo condanna, ma non ci sono solo i gatti, ma come ci ricordava il dottor Polidoro, anche scale, cappelli lasciati sul letto, sale che viene versato inavvertitamente a tavola, specchi che si rompono. Ma dietro a queste paure irrazionali c'è una spiegazione logica, se così possiamo chiamarla, o meglio, storica. La credenza superstiziosa, connessa all'origine con un evento realmente accaduto, è la memoria di una conoscenza perduta. Per esempio, credere che accendere 3 sigarette con un solo fiammifero porta disgrazia trova una spiegazione in fatti osservati durante la guerra dei Boeri, 1900-1902. Un altro esempio: incontrare un gatto nero per strada porta sfortuna, perché Napoleone avrebbe visto un gatto nero prima della sua sconfitta contro gli inglesi. Per lo stesso motivo, il gatto nero porta fortuna in Inghilterra. Deporre il cappello sul letto porta male perché richiama il gesto del prete quando si recava in una casa per amministrare l'estrema unzione a un moribondo. L'ombrello aperto in un luogo chiuso significava che vi era il tetto da riparare. Il pane rovesciato porta carestia perché una volta il panettiere rovesciava il pane destinato al boia. Toccare ferro porta bene perché nell'epoca medievale chi si trovava in pericolo sguainava la spada di ferro per difendersi. Varie superstizioni assumono anche un valore di antidoto contro un accanimento negativo già avvenuto. Versare il sale porta male perché nell'antica Roma i soldati erano pagati con il sale, salario. Per questo motivo, chi lascia cadere il sale o l'olio a terra deve gettarsi il sale dietro le spalle. E in linea con noi, per aiutarci a capire un po' le nostre superstizioni, abbiamo il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, nonché uno dei collaboratori del nostro Daily Lab. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buon venerdì 17 a tutti. Qualche cornetto? Non c'è bisogno dei cornetti, perché il pensiero magico e i rituali compulsivi di difesa in qualche modo fanno parte dei disturbi d'ansia e noi possiamo trovare dei modi un po' più efficaci di ridurre la nostra ansia, anche se fatto per gioco un cornetto lo possiamo lasciare in sottofondo. Dottor Aquilar, possiamo però fare una sorta di identikit del superstizioso? Ma certo, intanto il superstizioso è, come tutti noi, ma in maniera più forte, una persona che cerca di avere controllo su una realtà troppo complessa e imprevedibile per potersi controllare con le forze di un singolo essere umano. E quindi quello che noi potremmo fare è chiedere anche ai nostri ascoltatori di raccontarci le loro superstizioni e cominciare ad analizzarle, come si fa in psicoterapia con quelle più gravi del disturbo ossessivo compulsivo, valutando qual è la situazione, cioè il fattore scatenante, la preoccupazione, qual è l'ossessione, cioè l'idea che fa paura, e quali sono i rituali, cioè le azioni che possiamo compiere per evitare questo rischio o questa difficoltà. E quindi lei potrà interpretare le risposte e proporre eventuali soluzioni nei casi lievi. E certo, nei casi lievi possiamo proporre delle eventuali soluzioni, fermo restando che lo schema è sempre lo stesso, come diceva anche il dottor Polidoro. Proviamo a violare queste cose, vediamo che non succede niente e sentiamoci più tranquilli. Anche se talvolta le combinazioni possono far sì che quando una persona viola un rituale, per caso succede proprio quello che temeva in una forma diversa, ma questo lo valuteremo più avanti. Intanto abbiamo Francesco, un altro Francesco da Napoli. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Ormai sono mesi che sono legato dalle 11 alle 12 ad ascoltarlo. Dai, bello, l'abbiamo stregata Francesco. Sì, no, personalmente abbiamo fatto un rito. Allora, io sono napoletano e da buon superstizioso dovrei esserlo così fino in fondo. Però io sono nato il 17, oggi faccio 50 anni. Fantastico. Il 17 mi ha sempre portato fortuna in tutte le sue sfaccettature. Un esempio banale, che ne so, quando mi sposai andai in viaggio di nozze, entrai in un casino, giocai 17 e vinsi 3 volte di continuo. Però vabbè, poi le cifre modiche. Però diciamo che non siamo poi così tanto superstiziosi noi napoletani, abbiamo le fisime, queste sì, ma non sono superstizioni. Tipo che ne so, se vedo il Napoli che sono tifoso mi metto la sciarpa e la metto sempre ad ogni partita. Questo sì. Questo sì, ma dottor Aquilar, il suo concittadino, tra l'altro omonimo, Francesco, questo di mettersi la sciarpa in realtà è una fisima, come ci dice Francesco, ma è anche un gesto scaramantico, no? Una sorta di amuleto. Sicuramente è un gesto scaramantico, ma come diceva il nostro ascoltatore, viene fatto con uno spirito particolarmente giocoso, quindi è un modo di collegarci agli altri attraverso un'emozione condivisa. In questo senso va bene, esprime solidarietà. E Francesco ci dà anche l'occasione di vedere un altro aspetto, che è quello delle superstizioni individuali. Prima stavamo parlando delle superstizioni antropologicamente fondate, quindi quelle che un certo popolo, un certo gruppo condivide. Poi ogni persona, come nel caso di Francesco, a cui il 17, essendo la data della sua nascita, porta fortuna, ci sono le superstizioni individuali. Quelle individuali sono ancora peggiori perché non godono del vantaggio della condivisione. E quindi, quando sono positive, come nel caso di Francesco, va benissimo. Ma in altri casi dobbiamo starci attenti perché non possiamo nemmeno condividerle socialmente e quindi attutirle. Però vogliamo che i nostri ascoltatori ci raccontino anche le loro superstizioni individuali all'800 24 00 24. Ma intanto voglio leggervi un messaggio che ci arriva da Mario, da Livorno, che ci scrive: nella numerazione biblica ebraica le lettere hanno valore numerico, 17 uguale a Tov, ovvero buono, quindi tranquilli. Bene, ci sono delle categorie di persone che sembrano essere più superstiziose delle altre, ad esempio gli sportivi e gli attori. Amuleti, piccoli rituali e gesti scaramantici hanno, sembrano avere il potere di allentare un po' le tensioni di chi deve salire sul palco, scendere in campo, salire in pedana. Ci sono appunto amuleti preziosi e anche amuleti di poco valore. Ma come si sceglie un amuleto? Perché diventa proprio lui il nostro portafortuna? Lo chiediamo ad un amico che è in linea con noi, Aldo Montano. Ciao Aldo. Ciao, ciao, ciao, buongiorno. Perché tu? Io bene, scusami. Io anche sono nata come Francesco di Napoli, il 17, io di giugno, quindi per me il 17 è un buon numero. Io volevo sapere la storia dei calzini. Perché avevi scelto i calzini e non, che ne so, le mutande, un ninnolo e cose? Che cosa avevano questi calzini? Ne ho avuti tanti, ma tantissimi. Mm. Anche perché poi chi è scaramantico, cioè l'oggetto scaramantico ha una nascita, una durata e poi anche una morte. Certo. Perché si consuma, no? La scaramanzia si consuma nell'oggetto stesso. E questo dello sportivo capita molto molto spesso. Io ero arrivato un anno fa ad avere non sai quanti oggetti portafortuna, tra virgolette. Mm. Poi sono riuscito comunque a mettere a posto la mia vita e a togliere completamente tutto perché era diventato un lavoro. Cioè sapere di svegliarsi un'ora prima per assolvere a tutti portafortuna e farli coincidere astralmente nel posto giusto, insomma, era cominciato a diventare veramente una noia. Io i calzini, anelli, bracciali, qualsiasi cosa era un portafortuna, è legato sempre poi, cioè, a vittorie o sconfitte in pedana. Certo. Quello era principalmente quello, insomma, se la gara andava bene, allora mi guardavo cosa avevo addosso di nuovo e quello era il nuovo portafortuna. E calzini un po' è funzionato così. Il problema è che dopo due anni, ti puoi immaginare, usare lo stesso calzino non è proprio il massimo. No. Non è, cioè, lavandoli, però ti puoi immaginare, insomma, una gara già stressata per un calzino, poveretta, è ancora peggio. E io lo portavo dietro sempre, usavo i soliti bucati, sfasciati. Mm. E usavo e continuavo ad usarli al momento che ho dovuto decidere, cioè, o gli oggetti scaramantici o la mia vita, e ho preferito la mia vita e ho cancellato tutto. Senti, e li hai buttati tutti? Sì. Peccato, perché sennò ti chiedevo se ce ne spedivi un paio di calzini qua, io li avrei tenuti, non ci credo, ma dottor Aquilar, magari un paio di calzini di Aldo, ma può andar bene, cos'è? Che dice? E come no, perché noi possiamo utilizzarlo in due modi, perché amuleti e talismani non sono proprio, come dire, sinonimi. L'amuleto è quello che allontana dall'influsso cattivo, che è poi la ragione per la quale gli sportivi e gli attori hanno più tendenze scaramantiche degli altri, perché temono di ricevere uno sguardo negativo dai concorrenti o dagli avversari, mentre invece poi il talismano è quello che porta cose buone con sé. E quindi potremmo giocosamente tenere i calzini di Aldo Montano come amuleto e talismano contemporaneamente, quello destro come amuleto che ci allontana le influenze negative e quello sinistro come talismano che ci porta buono. Dai Aldo, cercaci un paio di calzini, noi li aspettiamo. Ve ne spedisco. Un abbraccio Aldo. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie, buon Ciao. 17. Luca dalla provincia di Grosseto. Buongiorno. Complimenti a tutti sempre per argomenti interessantissimi che proponete. Grazie Luca. Guardi, io tendenzialmente sono molto scaramantico. E diciamolo, perché qua nessuno è scaramantico, credo. Oggi per lavoro sono in auto e non vedo l'ora di ritornare a casa perché non guido volentieri. Sto 17, non è il venerdì, è il 17 che mi ha assillato nel corso della mia vita in episodi sgradevoli. Quindi sono molto scaramantico. Sono una persona di quelle che quando vede il gatto nero, pur avendolo anche avuto un gatto nero, si ferma, fa passare un altro e poi passo io. Sono di quelli che se vede uno scaleo non ci passa, sono scaramanti. Ecco perché Luca, io un po' sono come lei, io non mi ritengo superstiziosa perché essendo nata il 17 e forse era anche un venerdì, dico mi porta buono, però se vedo una scala cerco di non passarci sotto. Dottor Aquilar, questa costa così poca fatica che uno dice non ci credo, però certamente in alcuni casi come quello della scala che potrebbe sempre farci cadere addosso un oggetto pericoloso, c'è, come spesso succede e come si diceva anche prima, un fondamento iniziale in questa situazione. Ma l'altro aspetto che possiamo tenere presente è quello appunto della memoria selettiva. Gli scaramantici selezionano quei venerdì 17 in cui sono successe delle cose sgradevoli e per questo gioco della memoria selettiva la loro scaramanzia è sempre riconfermata. Il problema è, come al solito, una questione di intensità, frequenza e durata della preoccupazione. Finché solo una volta ogni tanto ed è fatta con un certo gioco, con una certa distanza, con un certo umorismo, va bene. Ma come nel caso di Aldo Montano prima, le superstizioni e i rituali possono prendere il sopravvento al punto che in alcuni casi le persone non riescono più a vivere. Quindi raccomanderei al nostro ascoltatore Luca di prenderla con un po' più di gioco questa sua preoccupazione. Ci scrive un amico Antonio, ha un taxi a Siena numero 17, forse qualcuno non sale, molti messaggi raccontano anche una superstizione al contrario. Ad esempio Stefano da Udine ci scrive: ho sempre avuto gatti neri anche perché così sono sicuro che gli automobilisti non li investono quando attraversano la strada. Ma andiamo ad Alessandro che ci chiama da Milano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Nicoletta, a lei e ai suoi ospiti in trasmissione. Noi sa che partiamo buono comunque. Ma guardi, oggi è il 17 e casualmente io oggi ho un colloquio di lavoro nel pomeriggio che mi cambierà radicalmente la mia vita e so già che andrà anche bene. Sì. Quindi appunto ho scelto apposta la data del 17 perché sinceramente non sono molto scaramantico. Comunque, se mi permettete una piccola disquisizione storica. Sì. Il 17, è, forse anche nel contesto italiano, diciamo, è stato anche visto male perché, ad esempio, l'unico doge della Repubblica Veneta, che è stato decapitato per attentato alla Repubblica Veneta, è stato un certo Marino Fallier, che è stato incoronato doge il 17 di settembre ed è stato decapitato il 17 di aprile dell'anno dopo, proprio perché, e tra l'altro la storia dice che lui, arrivando a Venezia per insediarsi al Palazzo Ducale, ha dovuto passare per una fitta nebbia tra le due colonne, quella che c'è in Piazza San Marco, la colonna di Sant'Odaro e la colonna di San Marco, dove proprio veniva montato il patibolo. Ancora adesso i veneziani passare fra quelle due colonne, insomma, si sentono un po'... Sì, fanno un po' gli scongiuri. Sì, esatto. Fanno il giro largo, insomma. Esatto. A differenza invece del venerdì 13, quando venne bruciato vivo Jacques de Molay, ultimo grande maestro templare, quindi... nel resto d'Europa viene più considerato il venerdì 13 come il Fausto. Ma certo Alessandro, che lei ne sa, dottor Aquilar, lei la sapeva del doge? No, del doge non lo sapevo, e questo ci aiuta anche a tenere presente due funzioni mentali che evitano che noi diventiamo prigionieri di queste cose. La prima è la differenziazione, cioè dobbiamo differenziare tra le varie situazioni, poiché nessuno di noi è candidato a diventare doge, se la preoccupazione del 17, diciamo, non ce ne può fregare di meno. E quando invece si tratta dell'altro processo, che è quello della generalizzazione arbitraria, pure dobbiamo starci attenti, perché il fatto che in un'altra situazione sia successo qualcosa di negativo, possiamo stare attenti a ricordarci che non dobbiamo generalizzarlo. E quindi anche qua comunque ringraziamo il nostro ascoltatore per le dotte citazioni molto interessanti. Essere e benessere. La superstizione è la poesia della vita. Entrambe escogitano essere immaginari e tra le cose reali, tangibili, suppongono i più strani rapporti. Goethe. E torniamo insieme con questa frase di Goethe, venerdì 17 di un anno bisesto che fa rima con funesto, talismani, amuletti, gesti scaramantici, piccoli rituali si sprecano, noi sappiamo bene che ci stiamo facendo qualcosa di irrazionale, eppure, dottor Aquilar, perché no? E abbiamo... Perché sì, infatti abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci le loro superstizioni personali, perché il dottor Aquilar potrebbe tracciare un breve profilo, dare loro una spiegazione o soprattutto aiutare ad abbandonarle. Questo che vuole fare il dottor Aquilar? Certo, a non esserne prigionieri e se vogliamo a usarlo come gioco per utilizzare delle emozioni sociali di condivisione che ci aiutano a sentirci meno soli. Paola da Genova e Massimo da Siracusa. Paola, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo raccontare la mia esperienza. Io sono un'insegnante in pensione e per tutta la mia carriera scolastica ho sempre cercato di combattere contro le superstizioni, diciamo, tra virgolette, degli alunni, tipo niente compiti in classe, venerdì 17, cose di questo genere, e sempre raccontando la mia esperienza personale. Io ho una figlia meravigliosa, adottata, è arrivata un venerdì 17 e adesso la combinazione vuole che oggi venerdì 17 andrà per la prima volta nella sua nuova casa, che poi in realtà la casa di mia mamma sì, è stata chiusa per tanti anni, rimessa quindi, a nuovo. Quindi torna questo numero. Io vedo in questo numero una cosa positiva, poteva essere qualunque altro giorno del mese, della settimana, però insomma. Vede Paola, anche lei, dottor Aquilar, in fondo ci dice non è superstiziosa, ma vede il venerdì 17 come un giorno un po' fortunato. E certamente che è un po' la stessa cosa, no? Di dire che invece è sfortunato. È certamente il giorno fortunato e sembrerebbe, da quello che diceva la nostra ascoltatrice, il giorno dell'innovazione. E anche in questo caso possiamo goderci il piacere di riscontrare questa casualità dei numeri che ritornano come il giorno dell'innovazione positiva, l'innovazione festosa, l'ingresso della figlia nella propria vita e l'ingresso della figlia ormai cresciuta nella sua nuova casa. È sempre l'idea dell'utilizzazione giocosa dello schema scaramantico che ci può salvare, e in questo caso è chiaro che possiamo fare un brindisi con Paola e con sua figlia con tanti auguri per la nuova casa. Massimo da Siracusa, buongiorno. Buongiorno, che si dice Nicoletta. Lì? Buongiorno a lei, Massimo. Allora, io in realtà chiamo per essere un po' tranquillizzato dal dottore, perché quando seguo la mia squadra di calcio, il Siracusa, utilizzo sempre non stessi indumenti ma molto spesso stessi accessori, in particolare un accendino. Senta, provi allora... anche con quei calzini, va Massimo? No, tanto cosa costa? Con un accendino banalissimo, tutt'altro che di pregio, la mia squadra ha collezionato 13 risultati utili consecutivi, cioè non ha perso per 113 giorni. Sabato scorso, alla vigilia di una gara, mi sono accorto che qualcuno dei miei amici mi ha probabilmente rubato il mio accendino, involontariamente l'ho preso. Sono entrato nel panico, giro di telefonate, l'accendino non è saltato fuori e la mia squadra domenica scorsa, dopo 13 partite consecutive e nelle quali questo non succedeva complessivamente 113 giorni, quindi questo numero torna, ha perso. Mi sento un po' responsabile di questa sconfitta. Speravo che il dottore potesse dire che tutto sommato non è colpa mia, anche perché sarebbe colpa di chi involontariamente o volontariamente ha portato via quell'accendino da un euro arancione. Era arancione, grazie per il dettaglio, non si sa mai. Dottor Aquilar. Ebbene, intanto, certo, se fosse vera la scaramanzia, la colpa sarebbe stata del nostro ascoltatore Massimo da Siracusa, che non ha custodito il portafortuna con sufficiente attenzione. Ma ovviamente, come lui stesso si rende conto, c'era stata una gradevole casualità e un inanellamento di molti risultati positivi per la sua squadra, era inevitabile che dovesse finire, e continuiamo a fare il tifo per il Siracusa e magari per ora per gioco possiamo usare un altro accendino arancione. Sì, lei dice di rimanere sull'arancione o di cambiare colore? No, rimarremo sull'arancione se riusciamo a giocarci. Se non riusciamo a giocarci o il nostro ascoltatore si sente molto male, cambiamo colore. In linea con noi abbiamo Gian Maria Liberti Gerbotto, autore del metodo antisfiga, le scaramanzie dei VIP, a Liberti Editore. Ciao, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, eccomi qua. Allora, le superstizioni dei VIP sono parecchio superstiziosi. Beh sì, penso quasi tutti, anche quelli che credono di non esserlo. Vero, perché c'è un po' una sorta di pudore a dire sono superstiziosa, ma sì. Gratta gratta, dall'oroscopo al Brava. Sale che rovesciamo, alla fine poi cerchiamo di evitare almeno quelle che sono considerate le superstizioni che il dottor Aquilar diceva, ma guarda, quelle io più condivise. Ne parlavo poco tempo fa proprio con il dottor Meluzzi invece, e certi comportamenti che a noi sembrano naturali, come ad esempio il ripetere le stesse cose, nascondono una forma di superstizione latente. Ti faccio un esempio, parliamo di Festa di Sanremo, Gianni Morandi inizia come è iniziato l'anno scorso, richiama le due vallette dell'anno precedente, reinventa un motto che corregge leggermente, però voglio dire, tutto questo modo di fare sicuramente indica un suo essere superstizioso. È vero, forse è così. Dottor Aquilar, che dice? E lo schema è sempre simile, nel senso che tutti questi comportamenti ci aiutano a tenere bassa l'ansia e ovviamente nel momento in cui c'è una maggiore esposizione, quale può essere quella di Gianni Morandi al Festival di Sanremo, ma anche in piccola parte quella che può essere una maggiore esposizione e un maggiore successo di cui sono circondati i VIP, l'idea è che questa fortuna che è capitata potrebbe da un momento all'altro essere persa. E quindi questo dà ansia e l'ansia dà luogo a comportamenti apparentemente protettivi. Gian Maria, tu nel tuo... Assolutamente sì, proprio così. I personaggi intervistati nel mio libro poi alla fine, quando cercano di spiegare il motivo della loro superstizione, dicono proprio quello che ha raccontato adesso il dottor Aquila. Proprio così. Senti, ce ne racconti un altro paio? Guarda, io ne ho sentite tantissime. Di cotte e di crude. Sì, veramente. Le più carine, sicuramente io citerei quella di Miriam Leone. Miriam Leone tiene come portafortuna un baffo del suo gatto. E quindi, voglio dire, non c'è portafortuna più originale e unico. Lo tiene nel portafogli. Poi, bellissima anche quella che invece non conoscevo, ma in realtà esiste, perché poi ho fatto le ricerche. Salutare le pecore porterebbe soldi, secondo Nino Frassica. Anch'io, sai, questa l'ho sentita quando... Vedi? Ma tu ne hai una, dato che comunque te ne sei fatto un po'. Sì, assolutamente sì. Guarda, io non ero scaramantico. Poi, in questi due anni in cui ho raccolto queste 100 interviste, lo sono diventato. Per una sorta di emulazione, cioè pensando, beh, se lo è Tizio e Caio, che sono personaggi molto più importanti, più furbi di me, allora posso esserlo anch'io, posso permetterlo. La mia è quella di battere 3 volte il cucchiaino sulla tazza prima di prendere il caffè. È una scaramanzia di origine napoletana, anche questa dicono che porti soldi e oggi non c'è voglio dire cosa ne migliore. Abbiamo assolutamente bisogno. Dottor Aquilar, lei che è napoletano, questa cosa del dibattere il cucchiaino 3 volte sulla tazza, la conosceva e la suggerisce? La conoscevo, perché ovviamente è un altro modo di fare amicizia. In questo senso la parte giocosa delle superstizioni è carina, perché se in un bar qualcuno fa questa azione, gli altri possono capire che sente il bisogno di una particolare protezione e fargli un sorriso, fargli una battuta, augurargli un in bocca al lupo. Il vantaggio quindi delle superstizioni è proprio questo, nella condivisione sociale. Negli altri aspetti è meglio rimpicciolirle e abbandonarle. Allora, però questa dei 3 colpi sulla tazzina la possiamo lasciar passare, quindi oggi, venerdì 17, facciamola anche noi. Magari un sorriso al bar lo strappiamo al nostro vicino. Grazie a Gian Maria Liberti Gerbotto per essere stato con noi. Ricordo il suo libro, Il metodo antisfiga, un libro da regalare magari ad una persona superstiziosa. Essere e benessere. E noi veloci veloci siamo tornati subito con Luigi da Lodi. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Come va? Bene. Ah, bene. Vi sento spesso. Qualche volta sono intervenuto. Ma io non so, io ringrazio buon Dio, sto bene di salute, sono fortunato in questo senso e sono nato di venerdì 17. Ma quindi noi dobbiamo festeggiare, facciamoci un profilino e festeggiamo. Siamo un sacco, mi state scrivendo, siamo tutti del 17, carini bene. E simpatici, va bene Luigi. Infatti anche oggi ho avuto una buona notizia, va bene. Detto questo, io sento spesso non fare gli auguri e fare in bocca al lupo. è una forma di superstizione che questa, oppure magari l'avete già detto? No, no, Luigi, non l'abbiamo ancora detto, il dottor Aquilar, questa non ce l'ha ancora spiegata. Dottor Aquilar, ci sono delle persone, vero, come dice Luigi, che quando dicono auguri fanno le corna? E certo. Perché e hanno certo. paura che uno gliela tiri? E sì, infatti è anche la ragione, come dire, la ragione del significato della parola gettatura, che era qualcosa che si gettava addosso. Si gettava addosso in quell'occasione, e l'idea è sempre questa del bilancio dei vantaggi e degli svantaggi che gli occhi, le intenzioni, l'invidia potrebbero dare alle persone. Ma anche in questo caso il nostro ascoltatore Luigi, essendo nato il venerdì 17, modifica la situazione e tiene anche presente che se qualcun altro dei suoi conoscenti non gli fa gli auguri ma gli dà l'imbocca al lupo perché è superstizioso più della media delle persone, non se ne offende, se ne fa una ragione e la prende come un limite di quell'altro. Ottima scelta. Dottor Aquilar, torniamo un attimo sul cucchiaino, perché ha scatenato la cosa, lei è napoletana, lo sa, come si batte il cucchiaino, sul fondo della tazza o sul bordo? Ce ne sono diverse varianti, io preferisco quella dove si batte sul piattino. Sul piattino, quindi sì. Però si può battere dove si vuole. Certo, ma sul piattino è più sonoro e quindi l'effetto di dimensione sociale di solidarietà diventa più efficace. Fantastico, questa oggi io batterò sempre sul piattino. Andiamo a trovare il professor Marino Ognola, professore di antropologia dei simboli all'Università degli Studi Suor Rosa Labeni in casa di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. La musica in sottofondo, la Vie en Rose, perché lei in questo momento si trova a Parigi. Questo mi fa una grande invidia. Beh, l'invidia non è una buona cosa, Bisogna stare attenti con l'invidia. Però sono certo che la sua è un'invidia buona. Benevola. Senta, ma i francesi? Sono scaramantici, superstiziosi come noi? Ha visto qualche cosa di strano oggi a Parigi? Sì, sono scaramantici e come i francesi, anzi c'è un sondaggio recente che dimostra che il 42% dei francesi crede moltissimo nei poteri della zampa di coniglio, di allontanare il male, quindi molti francesi camminano con una zampa di coniglio nascosta. Hai capito questi francesi. Professore, lei è autore del libro delle superstizioni, scritto a quattro mani con sua moglie, Elisabetta Moro. Sì, un'antropologa. Che è infatti, stavo proprio, me l'ha tolto dalla labbra. Come mai avete deciso di scrivere insieme questo libro? Tra l'altro molto bello, che io consiglio ai nostri ascoltatori. Abbiamo deciso di scrivere questo libro intanto perché ci divertiva l'idea di fare una sorta di dizionario, è un dizionario di fatto, poi da abracadabra fino a zucca, credo, e non ricordo quale sia l'ultima parola. Ci divertiva l'idea di fare una ricognizione, un catalogo di tutte le superstizioni italiane e non solo italiane, perché poi nel nostro libro ci sono superstizioni di altri paesi, credenze, scaramanzie. Cioè tutte quelle reti che noi spesso poi usiamo per fare i conti con gli aspetti più oscuri della realtà, quelli che ci spaventano di più. E alla fine è venuto fuori un lavoro che ci ha divertito molto fare. Ecco. Nel vostro libro, tra le molte indicazioni, date anche dei rimedi da fare. Questo l'ho trovato molto curioso e interessante. Ce ne racconta qualcuno da portare a casa oggi, perché la giornata non è ancora finita? I rimedi, per esempio, non pestare le righe, oppure quando si incontra un gatto nero, non paralizzarsi proprio, però molto spesso aspettare che passi qualcuno prima di noi e così via. Sono mille i rimedi. Fra l'altro, proprio di recente in Italia mi è capitato di vedere due persone che si sono fermate proprio perché era passato un gatto nero, due automobili che venivano da due direzioni opposte, e sono rimasti lì finché non è passato un terzo. Ho trovato la cosa esilarante. Infatti un ascoltatore mi aveva scritto che lui prende sempre gatti neri perché è sicuro che gli automobilisti non lo investono, dato che il suo gatto è un po' girovago e si fermano, ha una sorta di assicurazione. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona Parigi. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Dottor Aquilar, in chiusura, abbiamo quindi dato l'idea della tazzina con i tre colpetti da fare sul piattino, perché è più sonoro, ma chi vuole lo fa sul bordo, in fondo, eccetera. Come chiudiamo questa puntata di venerdì 17 per festeggiare questo giorno che abbiamo visto, in effetti possiamo prenderlo anche per il verso giusto e quindi prendere un'occasione per sorridere anche delle nostre leggere paure, se rimangono leggere, naturalmente lievi. Dottor Aquilar? Non l'abbiamo più. Vedi, il venerdì 17. Allora, intanto io vi ringrazio per averci seguito. Io vi raccomando, vi invito come sempre a scriverci anche sul nostro profilo Facebook. Possiamo raccontarci anche nel corso della giornata come sta andando questo venerdì 17. Io spero di poter salutare anche il dottor Aquilar, ma vedo che Laura Vanossi in regia lo sta cercando, ma non si trova. Forse c'è, dottor Aquilar? Dottor Aquilar, sì. Ecco, vede, il venerdì 17, lei me l'ha detto, mai mi è caduto un ospite in chiusura, oggi, nel mio venerdì, nel mio giorno preferito, che succede? 30 secondi. Le emozioni ci collegano agli altri, era quello che stavo dicendo, e quindi possiamo utilizzare anche queste piccole scaramanzie come un modo di comunicare e di solidarizzare. L'importante è che riusciamo a non farci rubare la vita da questi pensieri e li vediamo con distanza e con gioco, come un modo di stare insieme a persone anche sconosciute che condividono per un attimo la nostra emozione. Ale, ce l'abbiamo fatta, grazie al dottor Aquilar, grazie a voi, ci sentiamo come volete, lunedì ci risentiamo dopo il GR delle 11. Essere e benessere.